Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Si chiama Stop TTIP, è un movimento che unisce 320 organizzazioni di 24 paesi, organizzazioni che protestano contro il trattato commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea in fase di trattative. Hanno raccolto 1 milione di firme, hanno presentato un ricorso alla Corte di Giustizia Europea per bloccare appunto il negoziato. Noi stiamo cercando di condividere, di raccontare un po' alla volta naturalmente questo che è il principale probabilmente dossier dei prossimi anni nei rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti, tanto per sintetizzare la creazione davvero di un mercato unico transatlantico. Dunque è bene conoscere la questione e i punti di vista. La professoressa Monica Di Sisto insegna modelli di sviluppo economico ed è vicepresidente di Fairwatch, una delle organizzazioni italiane che supportano la campagna di protesta. Allora Valeria De Rosa le ha chiesto quali sono le maggiori criticità, secondo lei e i gruppi della protesta, dell'accordo. Questo non è un accordo che si chiude con la firma eventuale delle carte legali tra noi e gli Stati Uniti, ma è un living agreement, cioè un accordo vivente. È un accordo che quindi procede e continua a lavorare sui capitoli di deregulation e liberalizzazione attraverso due organismi. Il primo è un consiglio per l'armonizzazione dei meccanismi di regolazione, dove tecnici e rappresentanti dei portatori di interesse, badate bene, non dei parlamenti, degli eletti, non dei governi, potranno ogni anno segnalare una lista di priorità e discuterle in assoluta autonomia. E l'altro punto è che attraverso un meccanismo di arbitrato le imprese potrebbero contestare misure, leggi, normative che gli stati di lì in avanti potrebbero adottare in assoluta libertà in una sede arbitrale in cui dei legali commerciali affronterebbero il tema solo dal punto di vista della convenienza commerciale. A quel punto è vero che il testo per esempio potrebbe non contenere attualmente alcun tipo di misura di liberalizzazione, per esempio degli OGM, delle modalità di trattamento dei cibi, delle carni eccetera, però non c'è nessuna clausola all'interno del trattato che impedisce all'indomani della sua firma che interessi privati, personali intervengano. Quali sono secondo voi i capitoli da migliorare? Se veramente le due parti volessero appunto risolvere quei problemi che ci sono, ed è vero, di differenza di standard, immotivati eccetera, noi li invitiamo non appunto a sedersi a un tavolo e costruire un gigante geopolitico che creerebbe instabilità e conflitto ulteriore, perché non pensiamo che né la Cina, né il Brasile, né la Russia staranno a guardare mentre noi stringiamo questo accordo, ma dovrebbero avere il coraggio di andare appunto nelle sedi deputate già in piedi e affrontare i loro problemi. Qual è secondo voi la categoria che più rischia? Sicuramente l'agricoltura europea piccola e media, i produttori di materie prime alimentari, perché se l'Europa al massimo potrebbe pensare di aumentare le sue esportazioni del 60%, le importazioni dagli Stati Uniti aumenterebbero del 120%. E ora parliamo dei foreign fighters, come ormai vengono chiamati combattenti, volontari che si uniscono alle milizie jihadiste in Siria ed Iraq. Ecco, il flusso dei foreign fighters è in crescita costante, così secondo il coordinatore antiterrorismo europeo Gilles de Kerchove al suo ingresso questa mattina al Consiglio Affari Interni dell'UE. Molto dipenderà, dice de Kerchove, dalla nostra capacità di dialogare con le piattaforme internet, dal controllo dei documenti alle frontiere sulla base delle analisi del rischio, da un maggiore impiego di Europol e Eurojust, quindi i due strumenti istituzionali per la sicurezza interna nel sistema europeo. E infine un dato che non suonerà una gran sorpresa di questi tempi: gli italiani si fidano meno / poco dei poteri europei. Il 33% solamente ha fiducia nel Parlamento, con un 37% della media UE, il 28% nella Commissione, con un 32% della media UE, il 22% nella Banca Centrale Europea, il 31% invece di tutti gli europei si fida della Banca Centrale. Insomma, dati in discesa, e complessivamente il 64% degli italiani percepisce l'Unione soprattutto come una grande macchina burocratica. E con questo è tutto per questo appuntamento di Europa 24, l'appuntamento come sempre per lunedì intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.